Andrea Bottalico e Carlo Tombola, due che sanno di ciò di cui si parla questa sera. E io dico solo due parole in forma di domanda all'inizio, poi eventualmente altre dopo. Parto dal titolo di questo libro, Le frontiere del mondo, viaggio nella filiera del container. Un titolo abbastanza neutro, da saggio di sociologia industriale. E però nel primo capitolo vengono esplicitati due affetti forti come la rabbia e la frustrazione, qualche cosa che non si trova nei libri di sociologia industriale. E quindi la prima domanda è proprio su questi due affetti, su questo vissuto forte che ha accompagnato la tua ricerca e poi più in generale sulla pluralità dei registri narrativi, espositivi di questo libro, pluralità che anch'essa rompe con gli schemi tradizionali del saggio scientifico. Partiamo da qui e poi passeremo ad altro, perché appunto è la cosa che forse colpisce di più il lettore in quello scarto che si produce tra l'aspettativa legata al titolo e quanto tu incominci a raccontare da un punto di vista eminentemente soggettivo. Sì, buonasera a tutte e a tutti. Dunque, per provare a rispondere a questa domanda, penso sia utile provare a raccontare un po' la gestazione di questo libro, quindi un po' i fatti, no? Come è andata, quali sono state le motivazioni che mi hanno spinto a scriverlo e insomma, per quale motivo ho scelto anche un determinato registro narrativo. Dunque, i fatti sono questi. Nel 2015 ho iniziato a lavorare per una ricerca di dottorato su un tema che volevo approfondire, che possiamo racchiudere in poche parole. Volevo studiare i porti, volevo studiare i luoghi della circolazione della merce, le infrastrutture di servizio alla merce, volevo cercare di raccontare i meccanismi sociali, politici, le relazioni di lavoro all'interno di questi luoghi. Quindi ho iniziato questa ricerca all'interno di questi luoghi ed è stata inizialmente una ricerca di natura scientifica, quindi doveva rispettare tutta una serie di criteri di scientificità e bisognava poi realizzare alla fine di questa ricerca insomma, una dissertazione che rispettasse tutti i vincoli della scrittura accademica. Raccogliendo, facendo ricerca sul campo, mi sono accorto di aver inserito nella tesi una parte limitata, nella tesi di dottorato, quindi nella dissertazione finale di questa ricerca, una parte limitata del materiale che avevo raccolto. Quindi in sostanza, dopo qualche anno, mi sono ritrovato con una mole di informazioni, di materiale, di appunti, di note di campo non utilizzate per la ricerca che mi era che dovevo condurre all'interno del percorso di, insomma, di ricerca accademica. Quindi è andata un po' così, mi sono chiesto cosa farne di questo materiale, come lo tratto questo materiale. A partire da questa domanda mi sono ritrovato di fronte a due ordini di problemi principali. Intanto il problema della forma, no? E quindi il linguaggio. Quale linguaggio adottare per descrivere, per distillare il materiale raccolto durante la ricerca sul campo, una ricerca etnografica principalmente fatta di interviste, di osservazione, di immersione all'interno di un territorio che bisognava poi esplorare con attenzione, con dedizione e con, insomma, con precisione. Poi nel frattempo ho continuato a fare ricerca, quindi anche ben al di là, andando ben al di là della ricerca dell'università, quindi del percorso di dottorato, ho continuato a fare ricerca all'interno dei porti. Insomma, l'idea era quella di studiare un po' la logistica del trasporto merci, ed era, insomma, un po' per ossessione, un po' per passione, un po' per interesse, ho continuato a fare questa ricerca e quindi ho continuato ad accumulare ulteriore materiale. E quindi a un certo punto mi sono ritrovato con tutte queste informazioni e dovevo in un certo senso ragionare su una possibile elaborazione di questo materiale, una possibile ridefinizione di questo materiale, che era in un certo senso anche arido, perché appunto mi sono ritrovato a fare ricerca all'interno di territori di circolazione della merce, anche come dire, difficili da accedere, difficili da raccontare a chi non è poi addetto ai lavori in un certo senso. E quindi il primo problema è il problema del linguaggio, un po' una certa, come dire, ho cercato di ragionare su una certa schizofrenia linguistica, no? Il tentativo è stato quello di problematizzare un linguaggio che è quello accademico, con la sua burocratizzazione, con la sua forma standardizzata, per elaborare una forma di linguaggio diversa da quello accademico, ma anche per come antidoto all'assuefazione che può produrre lo stare all'interno di certi circuiti che sono appunto quelli dell'accademia, quelli dell'università. Quindi anche questa riflessione è una riflessione costante, poi una riflessione sul linguaggio che insomma va costantemente affrontata. Quindi il primo ordine, una riflessione di tipo sulla forma, una riflessione sulla forma attraverso cui raccontare certe dinamiche. E poi c'è la questione del contenuto. Mi sono ritrovato con molto materiale arido, quindi mi sono ritrovato a maneggiare delle informazioni che erano difficili da trasmettere a un pubblico non addetti. E quindi qui entro un po' più nel merito. Quindi ho cercato di raccontare, quindi sostanzialmente questo è un libro che racconta di questo attraversamento nei luoghi di transito della merce e cerca di farlo in una modalità che rispecchia un po' la riflessività che si ritrova spesso diciamo nelle autoetnografie, quindi in quei lavori di elaborazione su dei luoghi che descrivono dei luoghi all'interno dei quali ci si immerge per osservarli, per studiarli, per comprenderli, ma anche una riflessività che rispecchia il tentativo di riflettere proprio su se stessi, no? E quindi c'è un doppio piano del discorso, sia quello che riguarda un po', se vogliamo, l'aspetto metodologico, quindi questo è un libro che cerca di riflettere su tutto il percorso di questo disorientamento del quando si fa ricerca, sul posizionamento, quindi sul chi siamo quando facciamo ricerca, sul perché, sul come, sul quando facciamo ricerca, chi siamo quando andiamo sul campo, in che modo accediamo a questo campo, attraverso quali canali, qual è l'accesso. Infatti tutta la prima parte, insomma, racconta un po' di questo accesso a un campo che poi è un campo difficile da accedere, perché appunto i territori portuali, i territori della circolazione della merce che cerco di raccontare in questo libro sono dei territori chiusi, sono dei territori circoscritti, quindi per accedere a questi luoghi bisogna avere una sorta di quello che definisco cavallo di Troia, cioè bisogna di qualcuno che ti faccia, che ti dia il lascia passare. E nel momento in cui si entra in questi territori non sei soltanto tu che vedi, ma sei anche visto, e quindi c'è una riflessione quindi che ha a che fare un po' con l'aspetto metodologico del chi fa ricerca lo sa benissimo, lo sa molto meglio di me, il fatto appunto di ritrovarsi in un territorio che appunto ti definisce, no? Come scrivo nel libro, come una faccia tagliata in mezzo alla folla, perché appunto quelli che ti guardano ti identificano come qualcuno, come qualcosa, e quindi c'è una, diciamo, in tutto il libro viene definita un po' questa riflessione, viene problematizzato questo aspetto di chi fa ricerca, che appunto è il disorientamento, il senso di inadeguatezza, no? Che ha a che fare con questa schizofrenia di cui parlavo prima, no? Del trovarsi un po' in due dimensioni, cioè appunto l'aspetto accademico, l'aspetto universitario che ti in un certo senso delimita un po' gli spazi di azione e tutti gli altri aspetti che hanno a che fare con la ricerca sul campo, il fatto che appunto tu non sai esattamente quello che ti aspetta nel momento in cui ti ritrovi a fare ricerca sul campo. E poi c'è il contenuto del libro, come dicevo, questo è un libro che insomma racconta di questi luoghi di transito della merce, è un libro sostanzialmente diviso in tre parti e cerca di fornire una narrazione progressiva, e quindi c'è un'origine, c'è una parte centrale del libro che viene definita in transito e c'è una parte finale che viene chiamata destinazione. Sono tre tappe di questo percorso di formazione che coincidono con i tre quaderni degli appunti che ho tenuto e ho elaborato nel corso della ricerca sul campo in questi 5-6 anni nei luoghi di transito della merce. Poi è successa un'altra cosa, la pandemia. La pandemia in un certo senso ha fatto emergere, fatto venire a galla il tema centrale di questo libro, che è appunto l'analisi, l'osservazione dei meccanismi all'interno dei luoghi di circolazione delle merci. Okay? Quindi in un certo senso con la pandemia anche i più distratti si sono resi conto dell'esistenza di catene di produzione globali, di merci che circolano, che transitano all'interno di luoghi predisposti per la circolazione della merce su scala globale, appunto, e quindi il fenomeno viene a galla, ok? Quindi in un certo senso l'esistenza di catene logistiche viene emerge, no? Con la pandemia, nel momento in cui appunto le catene di produzione si inceppano, si bloccano, ed è qui che comincia il libro. Il libro comincia in un certo senso dalla fine, comincia nel momento in cui la pandemia obbliga mi obbliga a fermarmi, a mettere un punto a questa ricerca che poteva continuare all'infinito. Chi fa ricerca lo sa che ci sono, come dire, insomma, la passione ti porta a fare ricerca, ad andare sul campo, ad andare a osservare da vicino e talvolta questo è un processo che può durare molto molto tempo. Mettere un punto al processo di ricerca sul campo è estremamente difficile. La pandemia mi ha costretto a fermarmi in un certo senso, e quindi il libro inizia dalla fine, nel senso, nella misura in cui la pandemia mi costringe a guardarmi alle spalle, a guardare indietro, a guardare, come dire, a ritroso il percorso fatto fino a quel momento, e quindi a riflettere su tutti quei territori che ho osservato, che ho cercato di studiare, che ho cercato di raccontare. E per rispondere poi alla tua domanda, e magari poi mi fermo, la rabbia e la frustrazione derivano soprattutto dalla, come dire, necessità di mettere in discussione un linguaggio che ritenevo troppo autoreferenziale. Ricordo benissimo quando ho provato a portare il libro della monografia del dottorato a un portuale di Genova che mi ha risposto dopo una settimana, fa: guarda, l'ho letto, ho provato a leggerlo, non ci ho capito niente, insomma, non è roba mia. Insomma, lo stesso portuale ha ricevuto questo libro e mi ha detto che è riuscito a leggerlo in 2 giorni, gli è piaciuto, e questo mi fa pensare del fatto che quantomeno il tentativo di sperimentare una nuova forma per raccontare dei fenomeni può essere quantomeno necessaria per problematizzare un linguaggio che comunque resta per me asfittico, resta autoreferenziale, resta limitato. E quindi la rabbia e la frustrazione deriva anche da questo, da questa, come dire, tendenza a cercare nuove modalità per raccontare dei fenomeni alle persone direttamente interessate. Fare una domanda. No, volevo solo dire che quindi un sottotitolo più pregnante avrebbe potuto essere un Goetziano, I dolori del giovane ricercatore. Ecco, un'ultima annotazione che può servire magari da spunto per quello che va a dire Carlo Tombolo. Nel libro si usa costantemente la merce con la maiuscola. La merce con la maiuscola non è propriamente una categoria della sociologia, dell'analisi economica, ma appartiene più al campo della filosofia, dell'antropologia, della macchina economica. Ecco, questa scelta di maiuscolare la merce risponde a un processo, che è quello descritto nel libro, di assolutizzazione e tendenziale autonomizzazione del lavoro di questo settore. Ecco, questo potrebbe essere, sempre in quella chiave un po' particolare che hai usato tu, l'abbrivio per un discorso più descrittivo su quello che è proprio il tratto caratterizzante della logistica contemporanea. Ma intanto stiamo presentando un libro e quindi non sempre è utile guardare nella cucina del cuoco per vedere di che cosa, come dire, come è venuto fuori la cena. Forse bisogna parlare proprio del libro, prima che dell'autore e di come è arrivato a scriverlo. Intanto sì, la merce con la M maiuscola, secondo me, intanto è ossessionante la merce nel libro, perché questo però è un calco della realtà, cioè è la merce che ci ossessiona, la merce è ovunque, è tutto merce. E questa non è un'idea nostra, naturalmente nuova, questa faccenda risale a tanto tempo fa, a Marx, insomma. E a come aveva previsto che sarebbe andata e sta andando proprio così. E quindi che la merce sia centrale nella nostra società è assolutamente vero. E poi la seconda ossessione è quella di vedere la merce. Nel libro continuamente c'è questo verbo vedere, la merce non si vede, al negativo soprattutto, perché la merce non si vede. La merce è in scatolata, dentro i container e in una catena logistica di veicoli. Ecco, non si vede la merce, ma non si vede, e questo viene molto bene definito, dichiarato, non si vede neanche il lavoro. Non si vede neanche il lavoro, non tanto quello di produrre la merce in questo caso, né di consumarla, non si vede il lavoro di trasportarla, di muoverla, cioè di farla arrivare dal punto della produzione al punto del consumo. E questo non vedere il lavoro è a sua volta un altro interessante, come dire, un'altra linea diagonale. Siamo tutti un po' figli di Sergio Bologna, che ha cominciato a occuparsi di logistica perché guardava al lavoro. Ma questo lavoro, nel frattempo, sono passati ormai 50 anni da quando Sergio se ne occupava, e questo lavoro, nel frattempo, è sempre più in qualche modo evanescente, non è più in luoghi, ecco un'altra cosa che scompare, scompaiono un po' i luoghi. È vero che ci sono dei luoghi porto dentro il libro, molto interessanti, perché sono luoghi storici, ma questa storia e questa geografia dei porti tende appunto all'evanescenza, tende a finire nell'ombra, nella meno importanza. La storia dei porti è una storia che immagino conosciate, è la storia di lotte, è la storia di gilde, di corporazioni, è la storia di fatica fisica, è la storia di cambiamenti lenti in realtà nella tecnica, finché questi cambiamenti arrivano di colpo rapidamente negli anni 60 e invece l'accelerazione tecnica è fortissima, e da lì in poi il lavoro diventa appunto, va in secondo piano, conta meno. E oggi sì, nel libro c'è anche il numero da 7.000 dipendenti della compagnia unica, i camalli genovesi, siamo arrivati a quanti? Ma Sergio l'altro giorno mi ha detto 500, sono 500 quelli che lavorano nella compagnia. E oltretutto lavorano dove? Lavorano in gran parte sulle gru o alla base dove si muovono proprio i container, a sistemare i container. Quindi lavoro staccato dalla merce che viene manipolata, che a sua volta appunto scompare dentro i container. E questo vedere e questa merce sono, ecco forse la frustrazione da cui eravamo un po' partiti, no? Insieme a anche un personaggio, il personaggio del comandante, che è Aponte, poi il grande armatore napoletano che però sta in Svizzera, di cui non si sa niente, non dà interviste e non è una prima donna della World Economy, ma è un grande della World Economy. E le sue flotte stanno diventando gigantesche, ma non è soltanto flotta, è anche terminal e anche servizio a terra. Quindi Aponte ha in testa una catena logistica che è la sua azienda, ed è la stessa cosa che ha in mente Bezos, è la stessa cosa che ha in mente Amazon. Quindi in realtà questo mondo sta andando tutto nella stessa direzione, cioè nell'incorporare tutto il processo dalla produzione al consumo fino al cliente finale, quello siamo noi, non ci tolgono ancora questo ruolo per adesso, ma tutta questa catena che sta a monte del cliente qualcuno la vuole monopolizzare. Sono tecniche e comportamenti che stanno andando insieme nella stessa direzione. E non è vero che conta il software, conta l'hardware. Cioè conta davvero dove stanno le cose e che cosa sono queste cose, queste merci. Per cui, e qui viene fuori un po' anche la ragione per cui sono qui a raccontare il libro di Andrea, non soltanto perché abbiamo fatto una parte del percorso insieme, ma perché a un certo punto, anche qui una ventina di anni fa, un gruppetto di ricercatori ha avuto un'idea veramente bizzarra, cioè quella di vedere non la merce dentro i contenitori, dentro la filiera e la supply chain, ma di vedere se passano e quante armi passano dentro la catena logistica, per cominciare a dire cose che tutti sanno ma che non si riescono a vedere neanche un po' a quantificare, che una delle merci principali, la M più maiuscola delle altre, è proprio quella delle armi. E le armi in qualche modo sono le armi che fanno le guerre, non sono armi che vanno lì, come dire, a prevedere una difesa, a rafforzare la nostra sicurezza. No, sono proprio le armi che si esportano perché le guerre le facciano gli altri. E sostanzialmente i paesi industrializzati dell'Occidente producono il 90% delle armi del mondo, che esportano perché i compratori sono l'altra parte del mondo, cioè i paesi in via di sviluppo, si diceva una volta, cioè i paesi che stanno diventando adesso acquirenti di qualche cosa, di qualche benessere, e innanzitutto delle armi. Dunque la scommessa è stata addirittura quella di cercare dentro la catena logistica il modo di poter vedere qualcosa che non soltanto era invisibile per natura, ma voleva essere nascosta. cioè è proprio l'intendimento di far passare le armi dentro la catena logistica universale è che si confondano e che non siano visibili. Perché? Perché vanno anche in luoghi dove non dovrebbero andare, dove i trattati, le leggi, eccetera, dicono che non dovrebbero andare. E quindi Andrea in qualche modo è stato associato anche a questa operazione, credo più nolente che volente, ma in qualche modo appunto si sono incrociate i due tentativi di mettere luce dove c'è ombra. Però appunto l'ombra è proprio connaturata, non è che ci sia grande possibilità, soltanto la bizzarria di qualcuno contromano, questi portuali giovani, portuali genovesi che hanno voluto fermare delle navi saudite, altri che a Pisa, nell'aeroporto di Pisa, hanno voluto dire: ma guardate che questi non sono beni umanitari per l'Ucraina, queste sono armi che stanno andando in Ucraina e forse noi non le muoviamo. Ecco, quindi qualche azione qua e là c'è stata, poche in questi 6 mesi di guerra, ma qualcuno forse appunto ha detto che era l'ora di dire le cose che si vedevano, e se ne vedono poche ma si vedono. Ecco, questo è un po' la ragione biografica per il nostro incontro, ma anche la ragione per cui questo libro io credo valga la pena di essere letto. Sì, ci sono le tre fasi, l'origine, l'intransito e la destinazione della merce, ma ci sono anche Genova, Marsiglia, Gioia Tauro, Beirut. Cioè ci sono città-porto che del porto hanno vissuto fino quasi ad oggi in un certo modo, ma a cui poi il porto è diventato estraneo. Diciamo che l'immagine metaforica più importante è quella di Beirut, in cui il porto è esploso, quindi che non c'è più. Dentro il porto c'era qualche cosa che l'ha fatto esplodere. E non esploderanno, a mio parere, non esploderanno più le lotte storiche che nei porti sono esplose nel Novecento, nell'Ottocento. Non c'è più materia umana e non c'è più neanche un rapporto vero che permetta il conflitto. È un po' quello che succede nei centri logistici, no? Piacenza. E lì le lotte cosa sono state? Sono state praticamente contro la schiavitù. Nei porti la cosa non è così macroscopica. Si può anche guadagnare molto facendo il portuale, però bisogna vivere e lavorare da bestie. E questa disumanizzazione è andata avanti insieme alla smaterializzazione del lavoro, diciamo così. Ecco, io penso, lo dico anche perché abbiamo parlato con portuali tedeschi, belgi, dei porti che Andrea indica come essere quelli che più tirano verso queste mete, e lì semplicemente non esiste classe operaia portuale. La faccenda è frantumata. E la possibilità di fare scioperi che non siano sul salario, sulle condizioni materiali del loro lavoro, è impossibile. Uno sciopero politico lì non è neanche pensabile, e non si fanno infatti. Però ci sono tanto, succedono poi le eccezioni, no? Come succede a Trieste, per esempio, i portuali bloccano dei motori che un'azienda finlandese che produce questi grandi motori di nave ha già venduto in realtà, ma siccome vuole chiudere la fabbrica, allora portuali e operai lì insieme hanno bloccato questi motori. Ma fino a quando? È un'altra GKN, insomma, no? Fino a quando? Quante altre GKN dovremo vedere? Ne vedremo ancora tante, credo. Il capitale non ha frontiere e va dove gli serve andare. A Ponte, infatti, è in Svizzera, dove neanche i bilanci li chiedono. Non li fa i bilanci, non ha bisogno di fare bilanci. È padrone di cose incredibili, è diventato padrone in 15 anni di cose incredibili, ma di lui praticamente non si sa nulla. È peggio che Berlusconi. Berlusconi almeno un po' di mafia all'origine c'è stata. Qua non sappiamo niente di dove siano arrivati i capitali. Insomma, è un mondo molto interessante, è un mondo molto frustrante per in termini di cambiamento. C'è da temere che ci cambierà più di quanto noi vorremmo cambiarlo. In questo senso, questo libro costituisce un capitolo di critica di almeno due pilastri dell'ideologia contemporanea: la trasparenza e le regole del mercato. Tornerei sulla questione dei regimi di visibilità, dell'opacità. In tempi non troppo distanti si è ragionato sulle zone di opacità offensiva, quindi sulla valenza politica del rendersi invisibili al nemico di classe per accumulare forza e poi attaccare. E in questo caso si tratta di una opacità altrettanto politica, ma agita da tutt'altro attore. E infine vorrei riprendere anche una questione che ha esposto Carlo, quella della separazione tra la zona del porto e del retroporto e la città adiacente. Perché mi sembra che questo processo che partecipa poi è uno degli elementi che realizza il blocco e l'opacità agli occhi di chiunque, si inserisce in un più generale processo di neutralizzazione e svirilizzazione delle città storiche. Anche qui, primo ragionò tanto su ciò che portava un porto fluviale come la Darsena nella composizione politica e soggettiva di un quartiere come il Ticinese, e così è stato per tutti i porti importanti, appunto dall'Ottocento ma anche prima a tutto il Novecento. Ecco, così come viene distrutta la città storica nelle sue dimensioni materiali di stratificazione delle storie, delle lotte nei quartieri, questa neutralizzazione del porto ha effetti di grandissima portata in quelli che nel frattempo sono diventati gangli ancora più importanti per il movimento del capitale. Sì, no, vabbè, molte sollecitazioni, molte riflessioni interessanti. No, cerco giusto di dire due cose anche sul contenuto del libro, così magari provo a riallacciarmi a quello che diceva Robertino e a quello che diceva Carlo. Intanto l'idea è appunto quella anche di provare a parlare di questo libro proprio nelle città portuali, nei porti o nei, insomma, luoghi predisposti per la, insomma, manipolazione delle merci, anche nei retroporti, proprio per cercare di discutere un po' su alcuni aspetti che almeno a me, ma dico anche a noi, sembrano importanti, aspetti di natura politica e anche di natura sindacale. Come dicevamo prima, il libro è diviso in tre parti, in ogni parte c'è un'introduzione che è sul tempo presente, che riguarda appunto, come dire, la cronaca su ciò che è accaduto durante la pandemia, no? E quindi l'interruzione dei flussi, l'aumento delle mobilitazioni all'interno dei magazzini, nei porti e non solo. E in ogni parte viene raccontato, vengono raccontati dei luoghi di transito delle merci. Quindi nella parte iniziale c'è Genova, il retroporto di Genova. Nella parte centrale abbiamo Gioia Tauro, Marsiglia e Beirut, e nella parte della destinazione, appunto la parte finale del libro, abbiamo Anversa e Rotterdam. In ciascuno di questi luoghi si cerca, è come se, il libro è come se fosse una, come dire, come se fossero tanti reportage su questi luoghi. Soprattutto Genova è molto importante anche rispetto a quello che diceva prima Carlo e a quello che diceva Robertino, perché appunto è a Genova che inizia un po' questo percorso, che si iniziano un po' a conoscere le dinamiche. Partecipo a degli scioperi, due in particolare sono raccontati nel libro, e uno è sulla sicurezza sul lavoro, appunto, un tema molto molto delicato per i portuali. Il lavoro nei porti è un lavoro usurante, un lavoro pericoloso. Come mi dirà un portuale ad Anversa, sono due momenti in cui i portuali rischiano maggiormente di morire sul lavoro: quando iniziano perché sono inesperti e quando finiscono perché credono di avere talmente tanta esperienza da non poter temere più niente. Quindi il tema della sicurezza sul lavoro è un tema molto delicato ed è uno dei motivi per cui c'è stato questo sciopero a Genova in seguito alla morte di un camionista nel terminal container di Voltri. Ed era interessante per me osservare questa strana interazione tra portuale e camionisti, che comunque al varco, insomma, litigavano perché i portuali bloccavano il varco e quindi con il loro potere negoziale interrompevano il flusso di circolazione della merce. I camionisti invece, con le loro pressioni commerciali, dovevano lavorare e quindi scoppiavano dei litigi tra lavoratori che però dal mio punto di vista appartengono a una filiera che appunto definisco la filiera del container. E quindi per me c'è una segmentazione, no? Tra marittimi, portuali, camionisti, facchini dei magazzini, però ci vedo anche, come dire, l'appartenenza a una struttura che è omogenea in un certo senso. E il secondo sciopero, diciamo, una cosa che racconto su Genova è questo sciopero dei portuali in seguito alla nave, delle armi, ne avrete sentito parlare, insomma anche Carlo ne parlava prima. Cerco di raccontare un po' questa storia legata alla mobilitazione contro la nave delle armi che c'è stata a Genova, proprio per cercare anche di mettere in relazione l'aspetto sindacale con l'aspetto politico, quindi cercare di restituire anche ai portuali che sono stati coinvolti in queste mobilitazioni l'importanza della mobilitazione politica all'interno di una dimensione lavorativa, una mobilitazione politica come quella antimilitarista che appartiene anche a una tradizione lunga che i portuali di Genova poi hanno portato avanti, sono riusciti comunque in un certo senso a non disperdere. E poi abbiamo la parte centrale del libro, racconta di tre porti diversi tra loro che però sono importanti per cercare anche di provare a rispondere alla domanda principale del libro, no? Che appunto è un po' la domanda ossessiva di cui parlava prima Carlo: come si fa a vedere quello che non si vede? Che è un po' una domanda simbolica in un certo senso, no? Come faccio a osservare qualcosa che però mi viene costantemente nascosto? Quindi appunto il processo di circolazione della merce. E quindi si iniziano un po' a intravedere anche i personaggi, i protagonisti, no? Che ruotano intorno a questa faccenda. Non sono soltanto lavoratori, non sono soltanto camionisti, non sono soltanto portuali, marittimi, facchini, ma sono anche manager, sono anche imprenditori, sono capitani di industria. Quindi a Gioia Tauro inizio a conoscere la storia di Angelo Ravano, per esempio, un imprenditore ligure che scopre Gioia Tauro quasi per caso, perché aveva bisogno di questo luogo che avesse la funzione di sinapsi, no? Come definisce appunto il porto di Gioia Tauro per l'evoluzione dei traffici su scala globale. Quindi Gioia Tauro, che diventa a un certo punto il porto principale del Mediterraneo per una funzione particolare all'interno della logistica del trasporto merci, e quindi lo sviluppo di questo porto, che secondo me è anche un po' emblematico dello sviluppo del sud in un certo senso. Ed è qui che poi emerge questa figura di cui parlava prima Carlo, il comandante, questa persona, questo capitano d'industria che incarna perfettamente lo spirito del suo tempo, un armatore che appunto c'è a Gioia Tauro, ma non mi viene concessa la possibilità di incontrarlo, insomma c'è ma non si vede in un certo senso, e quindi sfugge continuamente alla ricerca, quindi è un po' frustrante anche questo, cioè il fatto di chi fa ricerca sul campo e si ritrova comunque a doversi scontrare con l'impossibilità di trovare poi delle risposte concrete ai fini della propria, insomma, domanda. E poi c'è Marsiglia, che è anche un porto importante per quanto mi riguarda, che racconto un po', traccio un po' l'evoluzione. Insomma, un porto industriale inquinato e molto importante anche quella vicenda, e c'è Beirut che appunto è un porto che racconto perché intanto è un porto dove in un certo senso prevale il fallimento di chi fa ricerca, che è non è una questione di dover ragionare su insomma in maniera troppo approfondita su se stessi, però è comunque importante riflettere sugli aspetti metodologici della ricerca, e quindi il fatto che una volta che arrivo a Beirut, appunto ci arrivo perché ho bisogno di incontrare delle persone che mi devono dare delle informazioni ulteriori necessarie per riannodare tutti i fili, cerco di accedere al porto ma non ci riesco, proprio perché è un porto militarizzato, è un porto estremamente impermeabile, difficile, e quindi è anche un po' volevo raccontare anche questo fallimento, perché è importante raccontarlo. Chi fa ricerca si ritrova spesso a dover trovarsi di fronte a al fallimento, quindi a commettere errori, a sbagliare, eccetera. E poi ci sono gli ultimi due porti, in cui praticamente vengono raccontati in un terzo e ultimo capitolo, che è il capitolo della destinazione, no? Quindi si inizia a intravedere un po' qualcosa nella parte finale del libro, si inizia a intravedere una possibile risposta alla domanda, e quindi ci sono dei personaggi che vengono incontrati, che vengono ascoltati, che vengono osservati nei due porti finali, nella destinazione di questo percorso, appunto Anversa e Rotterdam. Ad Anversa in particolare vedo marittimi, però ovviamente li vedo da terra, quindi non è che li vedo a bordo delle navi. Camionisti, altri portuali, riesco comunque a entrare un po' in contatto con alcuni di loro, e in particolare vedo una persona, un manager della azienda multinazionale del comandante, che è la persona che più mi avvicina poi a una possibile risposta alla domanda di ricerca di questo libro. Ed è una risposta un po', anche qui emerge un po' la frustrazione, cioè emerge una risposta che è frustrante, perché ti ritrovi appunto ad avere a che fare con persone che puntano ad espandere, no? Questa idea di gigantismo, questa idea di sviluppo illimitato del processo di accumulazione, sviluppo di nuovi traffici, quindi questo processo di asservimento ai dettami, ai diktat della merce, quindi ti ritrovi ad avere a che fare con questi personaggi che esprimono un'irrazionalità disarmante quando ti dicono che bisogna continuare ad espandersi, bisogna continuare ad aumentare i traffici della merce, bisogna sfruttare lo scioglimento dei ghiacciai per sfruttare nuove traiettorie, e ti ritrovi di fronte appunto a una risposta che appunto non c'è limite, no? È come se fosse un treno che si va a schiantare. E in un certo senso poi ci si ritrova alla fine di questo libro. Non voglio poi troppo voglio lasciare anche un po' di spazio alla lettura, però la cosa interessante è che in realtà poi a Rotterdam che è il porto più performante d'Europa, uno dei porti più insomma, importanti, no? in termini di movimentazione delle merci. A Rotterdam mi ritrovo di fronte al nulla, quindi è come se a un certo punto di nuovo emerge questa idea di invisibilità, perché ci si ritrova in un terminal container insieme ad altre persone, poi viene descritta per bene questa parte in cui mi ritrovo a Rotterdam in un terminal container completamente automatizzato, gestito da robot, da androidi, dove il lavoro praticamente sparisce, e quindi alla fine di questo percorso ci si ritrova davanti a un qualcosa che continua a essere, come dire, sfuggevole e di difficile, come dire, comprensione. Ma sì, non è che vogliamo leggere il libro al posto vostro, quindi leggetevelo, ma certamente l'originalità dello sguardo sulla logistica è che in qualche modo ormai è abbastanza chiaro, anche metodologicamente è chiaro, che si vede la società quale è e sta diventando mentre diventa. E ormai appunto non abbiamo più i luoghi della produzione, sono andati in Cina, sono andati lontani. Abbiamo soltanto i luoghi del consumo. Ecco, qua ritorna il discorso sulla città. In pratica sono città di soli consumatori quelle che noi abbiamo oggi. E qui il quartiere del Ticinese è addirittura una apoteosi di questo, no? Da un luogo della produzione più elementare, della immigrazione giornaliera verso le campagne della pianura padana, da un luogo della malavita, no? Quindi tanti substrati sociali, poi adesso tutto è diventato turistico. Tutto è diventato appunto la movida. E questo però è il destino di quasi tutte le città italiane, no? Non fugge. Forse Genova riesce ancora a fuggire, perché il centro storico di Genova è il più grande d'Europa e quindi del mondo. Cioè non c'è un centro storico così compatto, fitto, rimasto intatto, neanche in Italia. Insomma, quella di Firenze è una città che è stata ricostruita, ma Genova invece è ancora tutta lì, e ancora tutti caruggi, e ancora tutti vicoli inestricabili. Però tutto il resto, ha già il turismo ci gira attorno comunque, però tutte le altre città storiche sono state completamente stravolte. E in qualche modo la logistica è lo strumento di tutto questo movimento verso la merce, quindi verso il nulla, verso il consumo. Non c'è neanche più idea di che cosa sia la produzione, insomma. E comunque la produzione è lontana e logisticizzata anch'essa. Anzi, ormai lo sapete, la logistica disegna la catena produttiva, cioè si fa una catena produttiva in funzione di come poi si muoveranno le singole componenti di un prodotto, i magazzini dove saranno e dove sono i produttori. Quindi non importa tenerli vicini, importa che funzioni bene economicamente. E questi sono ingegneri, i logistici sono ingegneri. Anzi, logos, quel logos lì è il logo del calcolo, cioè del contare. Il capitalismo mai è ridotto a contare semplicemente profitti, profitti e profitti. E questo è il comandante. Il comandante non ha una logica. Ormai appunto era diventata metafisica, no? Nella intervista a questo dirigente a un certo punto si entra nella commedia dell'arte, perché non c'è più relazione tra il lavoro del manager e lo scopo finale di questa multinazionale megagalattica. Boh, cosa vogliono? Ecco, questa è la domanda che rimane certamente in sospeso e che non ha risposta in realtà. Sì, siamo nel pieno dell'autonomizzazione del valore in processo verso un orizzonte di demenza pura e semplice. Mi sembra che ci sia. E aggiungerei solo una cosa che non sta nel libro, perché queste strutture non hanno per il momento la necessità di rispondere all'esigenza che adesso esplicito, ma si tratta comunque di logistica, di movimentazione della merce. Nell'ipercapitalismo, oltre al processo di valorizzazione che è realizzato nella dislocazione altrove del nucleo duro della produzione, c'è un altro macrofenomeno che è quell'aggiunta di valore che è prodotta direttamente dal consumatore attraverso la sua economia simbolica, i suoi desideri, l'apprezzamento che realizza. Ecco, a me pare che nell'ultima campagna pubblicitaria di Amazon si espliciti per la prima volta in termini pratici questo valore aggiunto, cioè il sorriso che è diventato il logo di Amazon è questo. E la campagna pubblicitaria di Amazon su che cosa è assata? Sul superamento delle discriminazioni di genere in India, sulla bellezza oltre che comodità del ricevere il pacco, perché fa parte di una nuova bella vita che è simbolizzata da questo sorriso. Ecco, nella logistica mi pare che si incominci a riservare attenzione a questo lato che è propriamente emotivo. Prima Gondra non è che si presentava come un'esperienza della vita, era uno che trasportava con i suoi camion e basta. Adesso invece anche nella logistica, che è il settore centrale, è stata avvertita e praticata la necessità di andare a toccare i cuori dei consumatori. I cuori anche addirittura sul piano etico, perché insomma una questione come quella della discriminazione di genere non ha a che fare con il consumo, ma ha a che fare con il mondo bello e buono che è prodotto dalla circolazione della merce. Però a me piace di più invece allora questo genere di campaigners, che sono gli americani, che sono loro i veri artefici di questo meccanismo, di andare sempre un po' contromano. Allora, che cosa è venuto fuori qualche tempo fa? Che Amazon sta comprandosi anche le flotte aeree. Non si serve più soltanto di altre compagnie che gli muovono la merce. Adesso le comincia a comprare. È entrata come azionista di minoranza in una grande compagnia americana, che a sua volta ne contiene altre di più piccole compagnie. Una di queste compagnie è l'unica delle compagnie americane che ha accettato di operare nel cosiddetto ICE, mi sembra che si chiami, cioè nelle deportazione obbligata degli immigranti. Allora, questa compagnia qua ha fatto il suo business nei contratti governativi per spedire a casa i messicani, i honduregni, tutti quelli che arrivano lì a rompere le scatole agli americani. Allora, questi qua li deportavano, e soltanto questa compagnia però aveva accettato di fare questo lavoro sporco. E sta dentro la scatola cinese che sta comprando su Amazon. È partita una campagna di protesta e di boicottaggio dei prodotti Amazon basata su questo. Ci è rimasto questo, non è una grande soddisfazione, però ci è rimasto il fatto che questi, per la loro ragione commerciale, sono sensibili all'immagine, e ogni tanto sporcargli l'immagine gli dà molto fastidio. Ora, è molto difficile, ecco, per tornare da dove siamo partiti, è molto difficile sporcare l'immagine evanescente di Aponte, perché dov'è la sua immagine, di che cosa parliamo, alle amanti, ha truffato qualcuno, non paga le tasse, ma non sappiamo neanche questo, di Aponte non sappiamo niente, se non che ha fatto il capitano a sua volta, ha fatto il capitano di navi e ha imparato davvero a fare il mestiere e delle navi sa tutto, però questi sono addirittura delle fantasie che ci siamo fatti noi ormai, non esiste Aponte, non esiste. Non c'è il capitalismo con il capitalista, c'è il capitalismo e basta. Stati bravi, domande? Vieni, vieni. L'ultima cosa che ha detto Andrea a proposito di questo impatto che ha avuto con questo luogo in cui non ci sono più esseri umani ma macchine, e quindi il lavoro, tu dici, è invisibile, per dire che non, potrebbe non essere nelle quantità in cui noi siamo abituati a concepire luoghi di questo tipo. È anche vero, lo dico un po' per esperienza personale, che dietro quelle macchine c'è un lavoro quotidiano di programmatori, io li chiamo programmatori ancora, ma information technology, insomma, ma quotidiano è di probabilmente centinaia di persone, un porto così si manda avanti con un dispositivo tecnico per semplificare la faccenda, non si potrebbe neanche chiamare macchina, non so come dire, un sistema tecnico organizzato così ha bisogno di centinaia di ore di lavoro quotidiano, di programmatori secondo me. E quindi mi sorprendeva la tua sorpresa, che in realtà tu stai scoprendo un mondo che nessuno ha mai scoperto, che questo mondo che è da una parte invisibile e dall'altra è invisibile persino il lavoro che lo rende, non so come dire, effettive queste idee. Qualcuno programma queste macchine, cioè le fa e poi le fa funzionare. E a noi tutto ciò è invisibile, vanno avanti e vanno avanti. Io avevo una studentessa il cui papà lavorava a Lumezzane, vi ricordate che avevamo fatto quel discorso possibile di fare una ricerca a Lumezzane, nella siderurgia. Lei diceva che ci sono dei lavori in cui c'è un operaio che sta e osserva una macchina che lavora, deve intervenire ogni tanto, ma lui diceva è cambiato persino il modo di chiamare quella forza lavoro, la chiamano addetto alla macchina. Cosa fai? Faccio l'addetto alla macchina. Non dici faccio l'operaio in fabbrica, faccio l'addetto alla macchina nella fabbrica tra dei tali. Quindi cambiano anche le rappresentazioni della soggettività, per quello che mi ha dato esperire direttamente. Tutto qua. Un cazzo cadrò più. A te. No, parlo con questo. Oh. In breve, giusto quello che dici, infatti nella parte legata a Rotterdam racconto proprio questa peculiarità di questo luogo e appunto il fatto che lì ci hanno fatto praticamente osservare un terminal container, perché eravamo era stata una sorta di escursione in questo luogo, c'è un museo che si chiama Futureland all'interno di questo porto che descrive tutta questa innovazione avveniristica, e ci hanno fatto osservare il terminal container ma non ci hanno fatto osservare la control room, che era appunto il cervello del terminal dove c'erano appunto i programmatori e appunto il lavoro nascosto poi, no? E infatti appunto era questo un po', cioè, nel libro c'è un po' questa parte dove si riflette su questa strana dicotomia, per questo parlo di medioevo tecnologico, perché ti ritrovi da un lato con i camalli di Genova che si rifanno a una storia arcaica che nasce nel medioevo e si riproduce e sono ancora lì, nel senso che sono ancora lì perché la merce ha bisogno di quella flessibilità, sono il punto flessibile che esige la merce 24 ore su 24, 365 giorni all'anno tranne il primo maggio, e quella forza umana che tu vedi che ha una cultura del lavoro peculiare, perché appunto hanno questa attitudine a lavorare a chiamate, e quindi in un certo senso rivendicano anche questa autonomia cooperativa, e poi ti ritrovi alla fine del percorso in questo luogo asettico, senza esseri umani, almeno all'apparenza, ma che in realtà insomma, è basato sul lavoro di appunto i programmatori di software che sono nella control room, che non ci fanno vedere, e che non solo, è anche un luogo che produce informazioni, no? Quindi la cosa che a me colpiva in un certo senso era questo paradosso dell'automazione, che poi è un insomma qualcosa che insomma chi studia la logistica un po' lo sa, nel senso è abbastanza, cioè il fatto che il lavoro umano viene ridotto, ma è ancora, cioè è fondamentale, diventa più come dire, critico, perché le competenze necessarie per svolgere quelle prestazioni sono fondamentali, sono portate avanti da lavoratori altamente qualificati che sono ridotti in termini di numero, ma in realtà sono, come dire, fondamentali. Se loro andassero in sciopero sarebbe la fine. Però poi vedi degli altri porti che invece hanno, come dire, ancora, cioè, insomma, sono ancora, il lavoro umano è ancora, come dire, parte di questa faccenda, nonostante tu non lo veda, in realtà è ancora lì, poi, nel senso che tu lo veda nella control room, o meglio, che tu non lo veda nella control room, nel caso del libro, perché appunto io mi ritrovo in questo luogo e era, insomma, una situazione molto particolare, dove non c'erano esseri umani in banchina, o che tu lo veda in un altro porto, insomma, il lavoro è ancora lì, nonostante, voglio dire, la retorica della fine del lavoro. Ecco, ecco, per parte mia vorrei concludere con una piccola nota di speranza, se no usciamo e ci buttiamo nel naviglio. Amburgo, porto storico, le lotte pazzesche degli anni 90 dell'Ottocento, il cuore della rivoluzione di novembre, lì nasce il Proletarische Front alla fine degli anni 60 e così via. Oggi un porto gigantesco dove la forza lavoro è stata ridotta all'estremo, dove ci sono livelli di automazione incredibili. Però nei giorni delle manifestazioni contro il G20 il mero attraversamento della zona portuale da parte di due manifestazioni che calpestano le rotaie e danneggiano i sistemi automatici di controllo e di sicurezza della movimentazione delle merci determinano il blocco del porto di Amburgo per due giorni. Voglio dire che le possibilità del sabotaggio sono sempre aperte anche rispetto al sistema automatico di macchine più sofisticato. Ah, no, questa speranza non te la voglio lasciare, perché neanche per sogno. Allora, oggi, in questo momento, a Genova c'è un'altra di quelle navi Bari saudite, è arrivata stamattina. È stata, diversamente dalle ultime due, perché sapete che vengono ogni 20 giorni all'incirca, c'è una di queste navi saudite che passa da Genova ed è sempre carica di armi, perché arriva dagli Stati Uniti, no? Non passano in rotta occidentale, passano verso Oriente. Quindi quando arrivano, questa volta è stata Daldank, che è il terminal automobilistico e dei mezzi gommati cingolati di Baltimora, ed è sempre piena di questa roba qua, cioè dei cingolati, carri armati, blindati, eccetera. Però prima che i portuali si potessero sognare di rompere le palle, e qualcuno l'aveva fatto ieri notte, aveva fatto una scritta sul muro della banchina, lì c'era la Digo stamattina e c'erano i carabinieri su tutto il fronte del varco e c'era il controllo fisico su tutti quelli che potevano fare qualunque cosa. Quindi noi non sapevamo con sicurezza che c'erano armi su questa nave, ma adesso lo sappiamo, perché questi hanno fatto la difesa militare preventiva. Non so, ci possiamo accontentare, secondo me, di vederla finalmente questa merce, di vederle vedere finalmente la logistica di come ci stanno intrappolando. E la trappola più gigantesca, macroscopica, è proprio quella della guerra in Ucraina, no? Qua sembra che le armi le vogliamo dare tutti, ma va bene, lasciamo perdere queste faccende, ma comunque le armi ce le hanno portate e sono già sparite in parte, tanto che mandano i generali americani a controllare dove sono andate. Le loro armi stanno già sparendo, e si tratta di Stinger, Javelin, si tratta di roba che può tirare giù aerei civili, cioè disastro, un disastro che è già stato fatto in Afghanistan, che stanno ripetendo, va bene. Quindi no, non ti do tante speranze. Io purtroppo tutte le volte che vado a raccontare queste cose finisce sempre qualcuno mi dice: ma allora non ci lasci le speranze. Ma se non ci sono le speranze, perché dovremmo lasciarvele? Non so, non ci sono queste speranze, a meno che non le costruiamo duramente. Ma duramente vuol dire tanto duramente. Intanto con chi? Ecco, quindi non c'è proprio un vuoto umano. Ah, giusto, per stabilire della control room. E un mio caro amico che è nella nostra organizzazione di guardoni delle armi fa il project manager, cioè proprio lì nella catena logistica delle ferrovie americane. Sapete che le ferrovie americane praticamente non funzionano per i passeggeri, ma solo per le merci, ma tante merci, eh? E sono tutte non elettrificate, quindi sono tutte diesel e vanno ovunque. Gli Stati Uniti sono una delle più grandi potenze ferroviarie mondiali, la più grande direi. Ecco, lui gestisce una serie di compagnie ferroviarie che vanno sui binari statunitensi, è un lavoro che faceva a Denver tanti anni fa, adesso sta ad Ascoli Piceno, dove è nato e tornato. Da lì questo lavoro ha smaterializzato i luoghi del lavoro. Non è smaterializzato ancora il lavoro, è ancora lavoro proprio, perché lui davvero lavora, davvero gestisce, davvero passa del tempo, viene pagato, ma è già sperso. Quindi è un'altra componente della città che non c'è più. La città non c'è più perché i lavoratori tra loro non si possono più radunare, se non forse per motivazioni politiche, cioè se le trovano delle ragioni per fare dei progetti politici comuni. Non per andare avanti fino alle 2 di notte, ma quello che dici non basta togliere la speranza, nel senso che quella che hai descritto è una questione di rapporti di forza. È chiaro che se sei in 10 non fai neanche a tempo a scendere dalla macchina, che hai già intorno i Digos, l'antiterrorismo, i guardioni del porto e tutti quanti. Normalmente è chiaro che tu non puoi neanche accedere, ma in quei giorni ad Amburgo c'erano 20 focolai di scontri molto duri nella città, una situazione di perdita di controllo nonostante un dispiegamento di forze dell'ordine che è stato il più grosso nella Germania del secondo dopoguerra. Però la situazione era talmente calda che si è riusciti a entrare nel porto e praticare più o meno consapevolmente, perché non è neanche sicuro che i manifestanti sapessero di stare combinando quel disastro di sabotaggio che hanno combinato. Comunque l'hanno fatto, ci sono riusciti e non hanno avuto neanche conseguenze finali. Questa è una questione che in termini generali, secondo me, pone la necessità di una riflessione sul rapporto che oggi si deve dare tra rivolta e lotta operaia. Ci sono anche una serie di studiosi che proprio hanno tematizzato esplicitamente il ciclo storico di avvicendamento tra lotte operaie e riot. Io credo che effettivamente sia una questione dal punto di vista dell'analisi oggi centrale. Sono d'accordo su quello che hai detto, ma non è secondo me propriamente una risposta al caso di Amburgo, che ho citato come un caso, non è che ovviamente succeda tutte le settimane, perché sentendoti dire, la prima cosa che mi è venuta in mente è appunto questa: certo, con determinati rapporti di forza si riesce, con altri rapporti di forza ci si prende solo le denunce, questo è chiaro. Scusa. Sì, appunto, volevo aggiungere qualcosa sulle lotte nella logistica, che insomma hanno ormai una certa storia, cioè parliamo, sono iniziate nel 2008 alla Bennett di Origio, qui vicino, quindi sono circa 14 anni, non può essere considerata un fenomeno così estemporaneo. Cioè le lotte nella logistica, certo, sono partite da un fenomeno molto italiano, cioè gli appalti, subappalti, le cooperative più o meno in mano ai mafiosi o ai sindacati stessi, eccetera, eccetera, che non osservavano neanche i contratti nazionali, insomma le cose più sindacali che ci sono. Ma partendo da queste sono riuscite, non sempre, ma spesso, a risalire le catene produttive di cui si parlava e quindi a individuare dei nemici molto più potenti e reali, che sono grandi multinazionali, appunto dalla Bennett alla Leroy Merlin, alla FedEx, alla stessa Amazon, anche se qui le cose sono un po' complicate. E quindi diciamo ad assumere un carattere spesso e volentieri politico. Non per niente, diciamo, c'è stata anche una repressione notevole contro queste lotte. Hanno riscoperto una vecchia forma di lotta del movimento operaio, che era il picchetto, che semplicemente bloccando la circolazione delle merci, appunto, hanno bloccato, certo, in maniera come in un porto si potrebbe fare di più, però hanno cercato di bloccare questa circolazione e molte volte ci sono riusciti. E quindi è una forma di lotta che va senz'altro ripresa, perché oltretutto fa del male ai capitalisti, o al capitale, se vogliamo usare questo termine più astratto. Quindi un altro elemento di queste lotte è la composizione di classe. La composizione è, diciamo, noi la chiamiamo degli emigranti, in realtà è una composizione di un proletariato internazionale che appunto è nomade, cioè che migra, certamente non è in Italia il fulcro di questo proletariato, probabilmente sarà in altri posti più industrializzati, Cina, India, non so, cioè questo bisogna vedere, però qui in Italia c'è una componente di questo proletariato internazionale, multietnico, eccetera, che non si sa come andrà a finire, però potrebbe essere, diciamo, un fulcro di una nuova composizione di classe che potrebbe in qualche modo nel futuro avere una sua successo, comunque una capacità di lotte molto rilevanti. Grazie. Sì. No, più che altro forse perché è streaming, forse se puoi venire perché è streaming così ti sente, o no? Grazie, scusa, perché stanno in streaming così ti... No, grazie mille anzitutto per la presentazione, super interessante. E io avrei due domande su due questioni, diciamo, collaterali che sono un po' uscite prima nella discussione. La prima è rispetto un po' alla dimensione della città, perché prima, nello specifico, quella di Genova, che è quella che poi conosco meglio, eccetera, si parlava appunto, insomma, Genova, per chi la conosce, ha una dimensione molto particolare, con i Carruggi, questo centro storico appunto super esteso, però mi chiedevo, nella mia esperienza personale ho visto... nello specifico un fenomeno abbastanza singolare, ma cioè, che caratterizza, insomma, rispetto alla dimensione della presenza del porto, cioè quando c'è l'arrivo della nave da crociera, quindi soprattutto nel weekend, il fatto che nella zona un po' del centro storico, quindi via del Campo, via Pre, eccetera, nei giorni prima c'è letteralmente una pulizia da parte delle forze dell'ordine di tutte quelle persone, di tutte quelle soggettività che sono considerate indesiderabili, cioè quindi spaccini, sex worker, che insomma non erano accettabili per da esporre al turista che appunto arrivava. È appunto una questione collaterale rispetto poi all'argomento principale di cui trattiamo stasera, però la mia domanda era, nella vostra esperienza appunto di ricerca sul campo, cioè se avete osservato qualche fenomeno, qualche evoluzione, perché stanno succedendo delle cose a Genova anche abbastanza grosse, cioè cosa avete osservato? Cioè la città, brevemente, secondo voi come sta evolvendo anche in relazione al porto? La seconda domanda è invece rispetto a quello che appunto citavi prima del discorso di Amazon sulle deportazioni, così mi veniva in mente che appunto in Italia ce l'abbiamo forse un po' un esempio analogo che si collega a tutta questa vicenda e che si collega anche alla figura chiave, nel senso di Aponte, ovvero quello delle navi quarantena, cioè che sono per lo più in mano a GNV, che ha vinto quasi tutti i bandi che il Ministero dei Trasporti ha pubblicato da 2 anni a questa parte, appunto società sempre di Aponte, e è stato un fenomeno improvviso, totale, perché ha permesso alla società di poter far lavorare i traghetti, che erano totalmente bloccati perché non c'era più il turismo, perché c'era la pandemia globale, quindi era tutto bloccato. E ha creato anche lì una piccola filiera, cioè una filiera che era quella della deportazione e detenzione, perché soprattutto dalla seconda metà del 2020 le persone appunto che vi erano tenute a bordo, per lo più tunisine, venivano poi portate nei CPR, direttamente deportate. E quindi la domanda è, avete osservato altri fenomeni, diciamo, improvvisi e causati, non so come dire, dalla pandemia, cioè dal fatto che ci fosse questa contingenza super dirompente che ha inceppato una parte del meccanismo e ha dovuto trovare traiettorie del tutto inaspettate, perché fino a prima della pandemia penso che nessuno e nessuno che appunto si occupa di immigrazione si potesse immaginare che i traghetti venissero risignificati in questo modo, cioè letteralmente degli hotspot galleggianti. Niente, queste sono le domande, spero sia chiare, grazie mille. No, allora rispetto all'ultimo punto, molto interessante, no? Intanto grazie, non, personalmente non, nel libro non viene affrontato questo aspetto, perché appunto il libro, cioè il tempo pandemico, come dire, viene raccontato come narrazione di quello che accade veramente nel giro di poco tempo, cioè la parte presente del libro, quindi queste introduzioni iniziali a ogni capitolo raccontano soprattutto di quello che è successo nei primi mesi del lockdown sostanzialmente, quindi i portuali di Genova che non avevano le mascherine, gli davano i linee seta ultra per mettersi in faccia perché non c'erano mascherine, i camionisti, la psicosi tra gli autotrasportatori, la merce bloccata in frontiera che non ti facevano passare, gli scioperi, tutto quel caos che si è creato. Poi insomma questa parte su insomma le navi quarantena, GNV, insomma molto interessante in effetti quello che è successo dopo, però non sono riuscito a sviscerarlo e a raccontarlo, però è assolutamente, come dire, dà la cifra un po' di come questi riescono a cogliere le opportunità da qualsiasi circostanza, poi, no? È successo di tutto quando hanno chiuso le frontiere, quando hanno bloccato la produzione, quando hanno chiuso i magazzini, gli armatori hanno trovato tutti gli escamotage possibili per continuare a fare profitti, e nella parte di narrazione sul presente della pandemia, un po' si descrive di questo fenomeno, un po' che appunto ha visto gli armatori guadagnare nel periodo della pandemia molti miliardi rispetto al passato, record di profitti e di guadagni, eccetera. No, poi rispetto alla dimensione, come dire, in relazione alla città, rispetto al porto, è molto interessante quello che tu dici, perché appunto c'è tutto questo aspetto turistico, quindi le navi da crociera, però diciamo che nel libro si parla soprattutto di questa dissociazione tra il porto e la città, cioè il fatto che in realtà il porto di Genova ormai è a Voltri, il porto di Marsiglia è a 60 km da Marsiglia, insomma Anversa è chilometri e chilometri lontana dalla città, quindi questa separazione tra la città e il porto, no? È una cosa che è stata ricorrente. Gioia Tauro è un discorso a sé, perché Gioia Tauro è un porto nato in mezzo a una campagna di clementine e mandarini negli anni 90, no, cioè nel senso ben prima, negli anni 70, però diciamo il porto container nasce negli anni 90 e quindi è un porto relativamente recente. Però se guardiamo le città portuali storiche, quindi Genova, Marsiglia, ma insomma anche Rotterdam, tra l'altro c'era questo racconto ricorrente che dicevano a Rotterdam il fatto che il terminal container automatizzato in realtà l'avevano deciso proprio perché era talmente lontano dalla città che nessun portuale aveva, insomma, voleva andare a lavorare fin lì, perché erano tipo 70 km di distanza, e quindi vai a lavorare ogni giorno, vai a fare 130 km in auto per andare sul posto di lavoro, no? Quindi c'era pure questa cosa. E quindi una cosa che ho osservato rispetto all'evoluzione, allo sviluppo, all'espansione della filiera del container, di quella che definisco filiera del container, è questo processo di continua dissociazione tra la città e il porto, e cioè il fatto che comunque i luoghi il ciclo di valorizzazione della merce avviene lontano, avviene distante. Diciamo se guardiamo ovviamente la merce containerizzata, poi un porto universale movimenta una molteplicità di merci che in un certo senso prescindono dallo spazio portuale. Quindi la merce containerizzata nel caso di Genova è a Voltri, quindi già stai parlando di un altro territorio, no? Cioè, insomma, nel libro racconto di questo film Le mura di Malapaga, che praticamente il porto era appunto nel centro antico, ovviamente, no? Appunto il porto antico di Genova, no? era lì il porto fino agli anni 50, insomma dopo guerra, eccetera. Poi con l'evoluzione dei traffici, con l'espansione dei traffici, con questo ritmo, con la rivoluzione logistica, poi sostanzialmente avviene questo processo di separazione, di dissociazione, per cui quello che avviene in un porto in realtà è molto molto distante dal centro della città. Il centro della città deve essere in realtà, che poi è anche quello che succede a Napoli, insomma, il centro storico, ma anche a Taranto, cioè vedi questi porti dove il turismo, cioè, a un certo punto arrivano queste navi da crociera con 2-3 mila passeggeri e invadono la città, e l'attimo prima il centro storico è semiabbandonato, l'attimo dopo c'è questo insomma proliferare di turisti, e quindi più che altro nel libro cerco di osservare soprattutto questa separazione, e forse potrebbe essere un altro capitolo in futuro del libro, no? Tra una cosa a metà strada tra i dolori del giovane ricercatore e turisti per caso. Va bene, per usare le parole del napoletano, il nemico è l'uomo. Sono altre domande. Altri? Siamo pronti ad andare. Domanda. Vai. Vabbè, dai, porta il microfono. Ciao, grazie. Allora, innanzitutto volevo chiederti perché la Napoli è una grande assente in questo tuo racconto, e visto che anche a Marsiglia, Genova, il porto è stato allontanato dai centri storici, e visto che a Napoli abbiamo il problema che il mare non bagna la città, io mi sono sempre chiesta quale potrebbe essere una soluzione rispetto al nostro porto, come, cioè, visto che il nostro porto comunque è ancora abbastanza vicino al centro ma è chiuso, e visto che però il mare, tutto il resto del mare balneabile è comunque inaccessibile, mi sono sempre chiesta qual è la soluzione tra restituire quella parte di mare alla cittadinanza senza però allo stesso tempo allontanare le funzioni cardine lavorative della città dal centro. Mi ha fatto venire in mente questa domanda un altro porto di cui non abbiamo parlato, La Spezia, perché La Spezia è in un golfo naturale molto profondo, a parte che avrebbe un valore naturalistico e ambientale enorme, ma comunque è stata la città arsenale militare navale sabaudo, e poi è ereditata dal regno ed è tuttora il fronte porto, diciamo, naturale, è occupato per metà dall'arsenale, che però è vuoto. E quindi lì c'è ormai una domanda abbastanza forte di restituzione dello spazio portuale dell'arsenale alla città. Però le strade sono due, in realtà, quelle che si possono vedere alla Spezia. Da una parte l'espansione in concessione del porto civile, che è un porto importante, è il secondo porto italiano, Spezia. E quindi, che non ha, come tutti i porti liguri, ha dietro il monte, davanti il mare, e non c'è spazio. Spazio di espansione potrebbe essere appunto nelle aree che sono confinanti, proprio le aree dell'arsenale. E dall'altra il recupero ambientale, perché i militari nell'arsenale hanno seppellito schifezze per secoli, in particolare negli ultimi decenni, demolendo navi e lasciando i detriti o in luogo addirittura seppelliti, interrati, tombinati in quell'area lì. Che questo poi è un po' tutto il problema spezzino, perché dall'altra parte, cioè questo siamo nel versante occidentale, dall'altra parte c'è Pitelli, cioè dall'altra parte c'è la più grande discarica di porcherie di almeno 30 anni accumulata, oltretutto sopra un'altra discarica di cui non si può sapere niente perché è nato, e sotto tutto quanto passa la linea di rifornimento di come si chiama, carburante jet, che va direttamente da Spezia a Ghedi, che è una base atomica, come sapete, una base nucleare americana. Quindi passa questa condotta esclusiva militare e passa esattamente sotto Pitelli. Quindi Pitelli è la collina che sta sul margine orientale della città. Quindi ci sarebbe tanto da fare in termini di restituzione dello spazio e del territorio alla città. Però da quello che dicono localmente, il problema del recupero ambientale non è un problema, nessuno lo vuole affrontare, si è fatta una finta bonifica delle aree più inquinate, ma molte altre rimangono lì. Quindi sì, la lotta per lo spazio marino, lo spazio marittimo, ecco, per esempio a Spezia ci sono dei famosi coltivatori di cozze, che sono anche importanti sul mercato, perlomeno locale, ligure. E questi sono stati spostati già 4 volte negli ultimi 20 anni, perché non sanno dove metterli. Sono marginali rispetto a tutte queste logiche, no? Quindi al massimo il più forte degli attori lì si prende un pezzo, cioè se viene il comandante MSC, poggia il gruzzolo sul tavolo e vedrete che un po' di spazio se lo procura. Quello che è successo a Vado, cioè dove addirittura hanno costruito a mare, hanno polverizzato un pezzo di mare per fargli la banchina, dopodiché lui anche, l'ha anche abbandonata. Quindi, no, questi erano Maersk, questa era Maersk che poi se n'è andata. Quindi dipende quanto posano sul tavolo, se hanno voglia di giocare su quella postazione. Questo è un po' il gioco che c'è su, non so se a Napoli è così, immagino che di no, perché c'è un'accumulazione di interessi ancora maggiore. C'è anche la quinta flotta. Tra l'altro sì. No, vabbè, giusto due cose. Su Napoli non sono riuscito a raccontarla perché il periodo di ricerca sul campo che ho condotto l'ho fatto praticamente dal nord, da Milano e poi andando nei porti in giro per l'Italia. Sono stato anche a Napoli, però ti dico la verità, non sono riuscito a farci i conti poi, non sono riuscito a raccontarlo. Forse il fatto di essere stato distante per molto tempo da Napoli, perché durante la ricerca ero praticamente basato a Milano, quindi ho lasciato Napoli per un po' di anni e ho provato, infatti ricordo che una persona che di Genova diceva sì, ma perché non racconti anche del porto di Napoli? E, in effetti c'era una parte, diciamo una stesura iniziale concepiva il porto di Napoli, poi non sono riuscito a... non mi convinceva, l'ho tolta, però sì, è il grande assente, in effetti, forse perché non avendoci vissuto in questi anni, volevo prendermi del tempo per poter magari poi raccontarla con più calma e magari in un secondo momento. E poi no, rispetto a quello che dicevi tu, il problema è strutturale, cioè i porti sono comunque degli spazi in generale demaniali innanzitutto, quindi di fatto sono degli spazi pubblici dati in concessione a degli operatori, quindi in un certo senso c'è un po' un'ambiguità anche su questo, perché gli operatori dovrebbero svolgere delle attività economiche a beneficio anche della collettività, dal momento in cui i porti sono degli spazi pubblici, no? Quindi c'è questa dimensione un po' ambigua tra pubblico e privato. C'è l'autorità portuale che rappresenta lo Stato, no? Rappresenta il pubblico all'interno dei porti, e poi ci sono questi operatori economici che in cambio di una concessione che può durare anche 60 anni, insomma, svolgono delle attività, e quindi in un certo senso si tratta di rendite di posizione, no? Quindi chi possiede la concessione demaniale di uno spazio portuale ha in un certo senso è la gallina dalle uova d'oro. Però il problema è che gli spazi sono sempre insufficienti poi, no? Perché appunto sempre per questa logica del gigantismo, no? Per questa logica di espansione apparentemente illimitata, vedi il caso di Genova, no? c'è questo progetto di costruzione di una diga foranea, cioè è una follia, non entro nel dettaglio, però proprio per rincorrere le economie di scala, per rincorrere questo gigantismo navale, per rincorrere questa espansione, bisogna investire nella ricerca di spazi ulteriori. Anche ad Anversa mi sono ritrovato nel villaggio di Dul, che è un villaggio che praticamente è stato evacuato, hanno preso gli abitanti di questo villaggio e li hanno cacciati letteralmente, attraverso ovviamente dei meccanismi subdoli, per espandere gli spazi portuali, per aumentare i flussi di circolazione della merce, in questo caso per la realizzazione di un nuovo terminal container, ed è anche soprattutto per rincorrere la competizione con Rotterdam, che poi è a pochissimi, a pochi chilometri, cioè vicina a Anversa. E quindi c'è questa idea di fagocitazione degli spazi sempre, costante, no? Ossessiva, per cui gli spazi mancano sempre, questo in termini generali, in termini strutturali, ed è anche per questo che poi si assiste a questo fenomeno di dissociazione delle città portuali, quindi i porti si espandono sempre lontano dalle città e cercano degli spazi sempre più lontano. Il porto di Marsiglia è a Foss, che è a 60 km di distanza da Marsiglia, quindi è come se fosse un altro territorio, anche lì oggetto di conflitto. Il porto di Rotterdam, la terra del porto di Rotterdam è stata reclamata dal mare, quindi cioè, questi hanno praticamente ottenuto l'espansione del porto prendendo terra dal mare. Ok, questo giusto per dare l'idea. Nel caso di Napoli è chiaro che anche lì siamo di fronte a una situazione anche molto un po' simile a quella che diceva prima Carlo su Spezia, cioè il fatto che appunto ci sono pochi spazi che si dividono insomma in tanti operatori, e quindi c'è questo tentativo di espansione, c'è la darsena di Levante che vogliono sviluppare per favorire un aumento dei traffici di container, e ovviamente in una città dove l'accesso al mare è negato di fatto, questo è un problema. Infatti c'è tutto il discorso sulla apertura del Molo San Vincenzo, che è uno dei insomma cavalli di battaglia della nuova giunta comunale, che, cioè, sono anni che si parla di questo, no, di rendere questa parte di porto alla città, per non parlare poi di tutta l'area insomma di Bagnoli, che insomma è un discorso ancora più contorto. Però appunto, cioè, è veramente difficile contrastare gli interessi degli operatori economici che agiscono all'interno di questi spazi. È veramente un problema complicato, e il ruolo delle autorità portuali, la finisco qui perché poi potrei, è sempre più limitato. Le autorità portuali potrebbero essere quelle, insomma, potrebbe essere l'istituzione capace di garantire la tutela di interessi per la collettività e non interessi di tipo privatistico. Ma se un armatore, un comandante di turno, una multinazionale dice: se tu non fai quello che dico io me ne vado a Livorno, me ne vado a Civitavecchia, me ne vado a Spezia, è chiaro che l'autorità portuale ha un potere limitato rispetto allo strapotere del cliente principale dei porti, e cioè gli armatori. Quindi è una situazione, sono delle relazioni di potere molto difficili da sbrogliare, e quindi è chiaro che poi alla fine gli interessi della collettività sono quelli meno tutelati. Ecco. Direi che possiamo chiuderla qui. Grazie ai due, grazie a voi tutti. Grazie.